Questa mattina Oscar ha avuto il permesso per la prima volta di alzarsi e di sedere presso la finestra aperta. È una maliosa giornata di maggio. Il mio giardino è pieno di profumi, sebbene i miei rosai barbaramente potati non rechino che pochi boccioli. Nel giardino accanto al nostro fiorisce il sambuco. L'odore acuto del sambuco e la nostalgia di Giambattista mi rendono pesanti il cuore e le membra. Ho udito fermarsi una carrozza. Il mio cuore ha cessato di battere, come sempre succede quando una carrozza si ferma in attesa davanti alla mia casa. Ma era soltanto Giulia. È in casa la signora marescialla? La porta del salotto si spalancò, la mia dama di compagnia e Yvette si sprofondarono in inchini di corte. Maria, che appunto aveva spolverato il salotto, se ne andò a gran passi con volto impassibile in giardino, passandomi davanti. Non vuol più rivedere Giulia. Un regale gesto della mano di Giulia, certamente imparato da Monsieur Montel, allontanò tutti dalla stanza. Oscar si levò e corse incontro a Giulia. Zia Giulia, sono guarito! Senza proferir parola, ella prese il bambino tra le sue braccia, poi se lo tenne stretto al seno e mi adocchiò al di sopra della sua testolina ricciuta. Prima che tu lo legga sul Moniteur e sarà pubblicato domani mattina, ti voglio annunciare che Giambattista è stato nominato principe di Pontecorvo. Mi congratulo, principessa, rise. Mi congratulo, principino ereditario di Pontecorvo. E baciò la testa arruffata di Oscar. Non capisco. Giambattista non è fratello dell'imperatore, fu la prima cosa che riuscì a dire. Ma governa l'Hannover e Ansbach in modo così esemplare che l'imperatore ha voluto ricompensarlo, disse Giulia esultante e lasciò libero Oscar. Poi mi si accostò vicinissima. Non tenere allegri, altezza, principessa? Suppongo, mi interruppi. Yvette, champagne? Yvette avanzò a passo di danza. Rischio di ubriacarmi a bere champagne di mattina, dissi. Ma dal giorno che hai fatto arrabbiare Maria, lei non ci porta più la nostra cioccolata quando viene a farmi visita, così. E adesso dimmi dove si trova Pontecorvo? Giulia alzò le spalle. Che sciocca! Avrei dovuto domandarlo a Giuseppe. Non lo so, cara, ma non ha importanza, vero? E forse dovremmo andarci a governare, interruppi io. Sarebbe una cosa terribile, Giulia. Il nome sembra italiano. Sarà certo nelle vicinanze di Napoli, disse Giulia per consolarmi. In tal caso abiteresti almeno vicino a me, ma. Il suo volto si rattristò di nuovo. È troppo bello perché possa essere vero. Il tuo Giambattista è un maresciallo e l'imperatore ha bisogno di lui per le sue spedizioni militari. No, certo tu potrai rimanere qui e io dovrò andarmene sola con Giuseppe a Napoli. Una buona volta. Tutte queste guerre eterne dovranno pur terminare. Stiamo vincendo tanto da morirne. Chi mi ha detto questo? Giambattista. La Francia non ha più frontiere da difendere. La Francia è ormai quasi tutta l'Europa ed è governata dall'imperatore e da Giuseppe, da Luigi, da Carolina e da Elisa. E adesso è la volta dei marescialli. Salute, principessa! Giulia levò la sua coppa di champagne. Salute, maestà! Domani dunque lo leggeremo nel Moniteur. Lo champagne pizzica, dolce, gradevole. Dove si trova Pontecorvo? E quando finalmente tornerà a casa il mio Giambattista? Estate 1807, in una carrozza da viaggio in qualche parte d'Europa. Marienburg. La mia meta si chiama così. Purtroppo non so esattamente dove si trovi Marienburg, ma accanto a me siede un colonnello che l'imperatore mi ha dato come guida e tiene sulle ginocchia una carta geografica. Ogni tanto grida delle indicazioni al cocchiere, perciò suppongo che finiremo con l'arrivare anche a Marienburg. Ah, Maria, che siede di rimpetto a me, non fa che brontolare su queste strade così cattive, nel cui pantano restiamo spesso incagliate. Credo che stiamo attraversando la Polonia. Quando ci fermiamo per cambiare i cavalli, odo una lingua che non ha nessun suono germanico. È una scorciatoia, mi ha spiegato il colonnello. Potevamo passare anche per la Germania del Nord, ma avremmo allungata la strada e Vostra Altezza ha tanta fretta. Sì, ho tanta fretta. Marienburg non è molto lontana da Danzica, mi comunica il colonnello. Ciò non mi dice nulla perché non so neppure dove si trovi Danzica. Su queste strade ancora un paio di settimane fa si combatteva, annunciò il colonnello, ma adesso c'è la pace. Sì. Napoleone ha di nuovo stipulato un trattato di pace, questa volta a Tilsit. I tedeschi si erano sollevati sotto la guida della Prussia e avevano tentato di scacciare le nostre truppe dal paese e i russi li avevano aiutati. Il monitor ci ha informati tutti della nostra gloriosa vittoria presso Jena. E Giuseppe mi ha segretamente raccontato che Giambattista si è rifiutato di obbedire all'imperatore. Per ragioni strategiche non ha eseguito un ordine e ha semplicemente dichiarato all'imperatore che poteva anche deferirlo a un tribunale di guerra. Ma prima ancora che questo potesse avvenire, Giambattista ha chiuso il generale Blücher con la sua armata in Lubecca, Dio sa dove si trovi anche questa città, e ha preso d'assalto la città. Poi è venuto l'interminabile inverno, durante il quale ho ricevuto così poche notizie. Berlino era stata occupata, le truppe nemiche venivano inseguite attraverso la Polonia. Giambattista comandava l'ala sinistra del nostro esercito. Presso Mahrungen riportò una vittoria su truppe assai superiori per numero. Allora egli non solo batté definitivamente il nemico che avanzava, ma salvò addirittura la persona dell'imperatore. Questo buon successo personale fece tanta impressione sul comando supremo avversario che gli fu mandato il suo bagaglio di viaggio con l'uniforme di maresciallo e il letto da campo che erano caduti in mano al nemico. Ma tutta questa è storia di alcuni mesi fa. I reggimenti di Giambattista hanno continuamente respinto tutti gli attacchi di fianco al nostro esercito. L'imperatore ha vinto le battaglie di Eylau e di Jena e alfine ha riunito gli stati europei a Tilsit, dove ha dettato le sue condizioni di pace. Napoleone è poi tornato inaspettatamente a Parigi e altrettanto inaspettatamente i suoi lacchè in uniforme verde, il verde è il colore della Corsica, sono passati a cavallo di casa in casa a portare gli inviti per una grande festa celebrativa della vittoria alle Tuilerie. Io tolsi dall'armadio il mio abito nuovo di Leroy, di raso rosa pallido con delle rose color rosso scuro alla scollatura. E Yvette pettinò i miei capelli ribelli fermandoli col diadema di perle e di rubini che Giambattista mi ha mandato in agosto per un corriere nell'ultimo anniversario del nostro matrimonio. È tanto tempo, Dio mio, tanto tempo che non ci siamo più rivisti. Vostra Altezza si divertirà assai, disse la mia dama di compagnia, guardando con tanto d'occhi la cassettina d'oro con l'aquila nella quale conservo i miei gioielli. La cassettina che ricevetti nel giorno dell'incoronazione. Io scossi il capo. Mi sentirò molto sola alle Tuilerie. Non ci sarà neppure la regina Giulia. Giulia è a Napoli. È là, nel grande calore estivo. Sente il freddo della solitudine. La festa alle Tuilerie si svolse in maniera assolutamente diversa da come mi aspettavo. Oh, naturalmente ci raccogliemmo tutte nella grande sala da ballo e aspettammo finché si spalancarono i battenti e squillò la Marsigliese. Poi ci sprofondammo nelle riverenze di corte, comparvero l'imperatore e l'imperatrice, lentamente Napoleone e Giuseppina fecero il giro della sala, si intrattennero a conversare con alcuni e resero altri infelici trascurandoli. Dapprima non mi riuscii di vedere bene Napoleone. I suoi aiutanti, tutti di alta statura, scintillanti d'oro, lo circondavano, ma improvvisamente si fermò vicinissimo a me. Credo che si trovasse davanti a un dignitario olandese. Se è vero quel che ho inteso dire, le male lingue affermano che i miei ufficiali mandano avanti le loro truppe nella linea più avanzata e si tengono nelle retrovie, incominciò. E poi, con voce tonante, bene, non si dice questo da voi in Olanda? Avevo sentito dire che gli olandesi erano assai scontenti del dominio francese in genere, in particolare del tardo Luigi e della malinconica regina Ortensia, perciò immaginai che l'imperatore si sarebbe lagnato e non stetti ad ascoltare. Osservai invece la sua faccia. Napoleone è molto cambiato. I suoi tratti taglienti sotto i capelli corti si sono fatti molto più pieni. Il sorriso della sua bocca pallida non è più avvincente e insieme imperioso come una volta, è soltanto meditato. Per di più ingrassato, constatai. Sembrava addirittura costretto nella sua modesta uniforme da generale, non adornata da alcuna decorazione, all'infuori del nastro della Legion d'Onore che egli stesso ha istituita. Appariva alquanto rotondetto. Questa rotonda immagine di Dio sulla terra parlava con larghi gesti e solo a tratti si ricomponeva, intrecciando allora le mani dietro la schiena come faceva una volta nei momenti di grande tensione. Anche adesso teneva le mani annodate sulla schiena come se volesse frenare le sue dita troppo irrequiete. Il suo sorriso di superiorità si fece beffardo. Signori, Credo che il nostro grande esercito abbia finora dato una prova unica del valore dei suoi ufficiali. Anche i più elevati di grado non indietreggiano davanti al pericolo. A Tilsit sono stato informato che uno dei marescialli di Francia è stato ferito. Forse che nel silenzio profondo si udiva il battito del mio cuore? Si tratta del principe di Pontecorvo, aggiunse dopo una breve pausa studiata. Oh, ma è vero! La mia voce ruppe il cerchio dell'etichetta intorno all'imperatore. Una ruga dura si formò subito sul suo naso. Non si grida in presenza di Sua Maestà. Ah, ma era lei, la piccola marescialla Bernadotte! La ruga scomparve e in quel momento io seppi che Napoleone già mi aveva veduta. In questa maniera voleva che mi pervenisse la notizia, alla presenza di 1.000 persone strane. Voleva punirmi, ma di che? Mia cara principessa, incominciò, ed io mi piegai nella profonda riverenza di corte. Egli prese la mia mano e mi alzò. Sono spiacente di dovervi fare questa comunicazione, disse, mentre guardava con indifferenza altrove. Il principe di Pontecorvo, che si è molto distinto in questa campagna di guerra e di cui noi abbiamo grandemente ammirato la conquista di Lubecca, è stato ferito al collo, presso Spandau, da una palla di striscio. So che il principe già si trova in via di miglioramento. Vi prego di non inquietarvi, cara principessa. E io chiedo di poter raggiungere mio marito, sire, dissi quasi senza voce. Solo adesso l'imperatore veramente mi guardò, perché le marescialle non sogliono accompagnare i mariti nei loro quartieri generali. Il principe si è recato a Marienburg per farsi curare. Io vi sconsiglio, principessa, di rischiare questo viaggio. Le strade della Germania del Nord e soprattutto nella regione di Danzica sono pessime. E poi si tratta di territori che ancora poco tempo addietro erano campi di battaglia. Non è spettacolo per delle donne, disse freddamente. Intanto mi osservava con interesse. Questa è la vendetta, pensai, per quella notte, quando andai a trovarlo, prima della fucilazione del duca d'Enghien. Perché quella notte gli sono sfuggita dalle mani. Perché amo Giambattista. Giambattista, questo generale che non è stato lui a destinarmi. Sire, io chiedo con tutte le mie forze di poter raggiungere mio marito. Sono quasi 2 anni che non lo rivedo. Gli occhi di Napoleone continuavano ad essere fissi sul mio volto. Quasi 2 anni. Vedete, signori, come si sacrificano per la loro patria i marescialli di Francia? Se volete rischiare, cara principessa, vi si provvederà di un lasciapassare. Per quante persone? Per due. Condurrò con me soltanto Maria. Scusate, principessa, chi avete detto? Maria, la nostra fedele Maria di Marsiglia. Vostra maestà forse se ne ricorderà ancora, risposi. Finalmente, la maschera marmorea scomparve. Un sorriso divertito ne prese il posto. Certo, la fedele Maria, Maria delle torte di marzapane, e ad uno degli aiutanti, lascia passare per la principessa di Pontecorvo e una persona d'accompagnamento. I suoi occhi si mossero intorno cercando e si fermarono su di un colonnello di alta statura con l'uniforme dei granatieri. Colonnello Moulin, partirete anche voi e risponderete a me della sicurezza della principessa. E a me. Quando pensate di partire? Domani mattina, sire. Vorrei che recaste al principe un cordiale saluto da parte mia e un dono. Per riconoscimento dei suoi meriti in questa vittoriosa campagna, gli faccio dono. I suoi occhi incominciarono a scintillare, il suo sorriso divenne beffardo. Ah, oh, adesso ne dice una delle sue, sentivo. Gli faccio dono della casa dell'ex generale Moreau nella Rue d'Anjou. L'ho comprata poco fa da sua moglie. Mi dicono che il generale ha scelto per il suo esilio l'America. Peccato per lui, un valente soldato. Purtroppo un traditore della Francia. Peccato. Nel mio profondo inchino non vidi che la sua schiena e le mani intrecciate sulla schiena. Le teneva serrate, l'una nell'altra, convulsamente. La casa del generale Moreau. Di quel Moreau che insieme a Giambattista non volle tradire la Repubblica il 18 Brumaio e che 5 anni dopo fu arrestato e condannato a 2 anni di carcere per partecipazione a un complotto realista. Fu così ridicolo arrestare come realista questo fedelissimo soldato della Repubblica. Il primo console commutò questa condanna all'esilio a vita. E l'imperatore ha comprato la sua casa e la dona al miglior amico di Moreau che egli odia e di cui non può fare a meno. Così, è andata. E io viaggio adesso per le strade che attraversano i campi di battaglia e passo davanti a cavalli uccisi, davanti a monticelli di terra sui quali stanno piantate delle croci, messe insieme in gran fretta e inclinate dal vento. E piove, piove senza tregua. E tutti hanno delle madri, dissi di punto in bianco. Il colonnello accanto a me, che si era appisolato, sussultò: Come? Prego, delle madri? Accennai ai tumuli sui quali calava scrosciante la pioggia. I soldati morti sono pure dei figli. Maria tirò le tende davanti ai finestrini della carrozza. Tutto a termine una buona volta. Mi sfuggì detto quando la nostra carrozza si arrestò finalmente davanti al quartier generale di Giambattista. A poco mi sono abituata ai castelli, ma Marienburg non è un castello, è una burg, una rocca medievale, grigia, detestabile, rovinata e lugubre, davanti all'ingresso un formicaio di soldati. Quanto scattar sull'attenti e quanta agitazione dopo che il colonnello Moulin ebbe presentato il mio lasciapassare. La marescialla in persona. Voglio fare un'improvvisata al principe, prego, non annunciatemi, dissi scendendo di carrozza. Due ufficiali mi guidarono per l'androne e giungemmo in un cortile pessimamente lastricato. Io guardavo sgomenta i grossi muri in rovina e mi aspettavo ad ogni momento di incontrare damigelle medievali e menestrelli. Ma non vedevo che soldati, soldati dei diversi reggimenti. Monsieur si è quasi completamente rimesso. D'altra parte, in quest'ora, Monseigneur sta lavorando e di regola desidera di non essere disturbato. Che grossa sorpresa, disse il più giovane dei due ufficiali e sorrise. Ma non si è trovato un quartier generale migliore di questa bicocca da menestrelli? Mi sfuggì di bocca. Al campo il principe non ha preferenze per la sua dimora e qui almeno abbiamo del posto per i nostri uffici. Da questa parte, principessa, prego. Aprì una porta a muro, percorremmo un corridoio, faceva freddo e vi era odore di muffa. Al fine giungemmo in una piccola anticamera dove mi si precipitò incontro Fernando. Madame! Quasi non l'avrei riconosciuto, tanto era mutato. Aveva indosso una livrea color rosso vino, con degli enormi bottoni dorati decorati da uno stemma. Ma tu sei diventato elegante, Fernando, dissi ridendo. Oh, adesso siamo principi di Pontecorvo, mi annunciò solennemente. Vi prego di guardare i bottoni, madame. Sporse il ventre in avanti per farmi vedere tutti i bottoni della sua marsina. Lo stemma di Pontecorvo, lo stemma di madame, dichiarò fieramente. Finalmente riesco a vederlo, dissi io, e osservai con interesse quel complicato lavoro di cesello. Come sta mio marito, Fernando? Oh, siamo, per così dire, ormai completamente guariti, ma la pelle nuova sulla ferita prode ancora, mi annunziò. Io mi misi un dito sulla bocca. Fernando mi comprese e aperse pian piano una porta. Giambattista non mi udì entrare. Sedeva ad uno scrittoio col mento appoggiato sulla mano e studiava un grosso in-folio. La candela presso il libro gli illuminava soltanto la fronte, questa fronte era limpida e tranquilla. Mi guardai intorno. Giambattista aveva combinato intorno a sé un curioso scompiglio. Davanti al camino, dove crepitava il fuoco, era lo scrittoio con i documenti e i volumi in folio rilegati in pelle. Di fianco al camino pendeva un'enorme carta geografica. Le fiamme vacillanti vi gettavano sopra dei grossi bagliori. Nel fondo scorsi il suo angusto letto da campo e un tavolo con un catino d'argento e delle bende. Tolto ciò, l'enorme stanza era vuota. Mi accostai un po' di più. I ciocchi del camino crepitavano. Giambattista non mi udì. Il colletto della sua uniforme turchina da campo era aperto. Portava un cravattone bianco e sotto il mento il cravattone era allentato. Ed io scorsi una fasciatura bianca. In quel momento voltò una pagina del grosso volume e annotò qualche cosa in margine. Mi tolsi il cappello. Presso il camino faceva molto caldo e per la prima volta dopo tanti giorni provai un senso di benessere e di sicurezza. Ero soltanto stanca, terribilmente stanca, ma non importava ormai, ero finalmente alla meta. Altezza, dissi, caro principe di Pontecorvo. Al suono della mia voce balzò in piedi. Dio buono, Desirée! Con due rapidi passi mi fu vicino. Ti duole ancora la ferita? Domandai tra due baci. Sì, specialmente se tu, come fai ora, vi premi su così forte col braccio, confessò. Ho spaventata, lasciai cadere le braccia. Ti bacerò senza abbracciarti, promisi. È possibile? Sarebbe meraviglioso. Mi sedetti in grembo a lui e accennai al grosso volume sullo scrittoio. Che cosa stai leggendo? Diritto. Un rozzo sergente deve imparare molte cose, sia da reggere tutta la Germania del Nord e le città anseatiche, disse lui. Le città anseatiche? E che cosa sono? Amburgo, Lubecca, Brema, e non dimentichiamo che dobbiamo continuare ad occuparci di Hannover e di Hansbach. Io chiusi il libro e mi strinsi a lui disperatamente. Oscar è stato ammalato, sussurrai, e tu ci hai lasciati soli. Tu eri ferito, è lontano da me. Sentii la sua bocca, ragazzina, ragazzina, disse soltanto, e mi tenne stretta a sé, finché improvvisamente venne spalancata la porta. Fu proprio penoso. Naturalmente balzai dalle sue ginocchia e mi ravviai i capelli. Sulla soglia però non c'erano che Maria e Fernando. Maria vuol sapere dove dormirà la principessa. Vuol disfare i bagagli, gridò Fernando in tono d'accusa. Sapevo che era furioso perché avevo condotto Maria con me. E in questo cimiciaio la mia Eugenia non può pernottare, protestò Maria. Cimici? Neppure una, replicò Fernando. Tra queste mura umide tutte le bestie muoiono di freddo. Al deposito ci sono dei letti, ci sono persino dei letti principeschi col baldacchino, dichiarò. Ah, cimiciaio, ripeté Maria stizzita. Quando questi due bisticciano mi sento a casa mia come nella Rue Cisalpine, disse ridendo Giambattista. Di colpo mi venne in mente il dono dell'imperatore. Glielo dirò dopo colazione che dovremo accettare la casa di Moreau. Prima è meglio mangiare e bere del vino e poi. Fernando, tu mi garantisci che entro un'ora saranno in perfetto ordine una camera da letto e un salotto per la principessa? Ordinò Giambattista e aggiunse, e non con i mobili umidi del deposito. L'aiutante di servizio requisirà nelle tenute dei dintorni dei mobili per la principessa, mobili decorosi. Senza cimici, sibilò Maria. La principessa ed io desideriamo cenare soli qui nella mia stanza tra un'ora. L'udimmo ancora litigare per un poco nell'anticamera e ci ricordammo del letto nuziale con le rose e le spine. Ridemmo molto. Io mi sedetti di nuovo sulle sue ginocchia e gli raccontai disordinatamente delle tribolazioni di Giulia Regina, della tosse canina di Oscar, del morbillo e dei saluti che dovevo recare per incarico di Monsieur Beethoven. Devo dirti che non può dedicare la nuova sinfonia all'imperatore, vuole intitolarla semplicemente Eroica, a ricordo di una speranza che gli ebbe una volta. Che noi tutti avemmo una volta, assentì Giambattista. Eroica? E perché no? Fernando apparecchiò una piccola tavola. Durante la cena, il cuoco di Giambattista nel cimiciaio ci fornì un pollo novello eccellente e Fernando versò nei bicchieri del severo Borgogna. Io notai. Ti sei comprato dell'argenteria nuova con il monogramma del principe di Pontecorvo? A casa io continuo ad adoperare le nostre posate col semplice B. Fa cancellare il B e incidere il nuovo stemma, Desiree. Non hai bisogno di risparmiare, cara. Siamo molto ricchi. A questo punto Fernando scomparve definitivamente. Io respirai forte. Siamo più ricchi di quel che credi, incominciai. L'imperatore ci ha regalato una casa. Giambattista alzò la testa. Tu mi stai portando un mucchio di novità, ragazzina. Il mio vecchio amico Beethoven chiama Eroica una speranza sepolta. Il mio vecchio nemico l'imperatore ci regala una casa. Che casa? La casa del generale Moreau, nella Rue d'Anjou. L'ha comprata da Madame Moreau. Lo so, per 400.000 franchi. È già un paio di mesi. E allora se ne è parlato molto nei circoli degli ufficiali. Giambattista stava dividendo lentamente un'arancia. Questa arancia aveva attraversato tutta l'Europa. Probabilmente veniva dal regno di mia sorella. Costituiva un minuscolo elemento delle razioni della grande armata che occupa tutta l'Europa. Bevvi un bicchiere di liquore. Giambattista apparve improvvisamente stanco. A casa di Moreau, mormorò. Il camerata Moreau è andato in esilio. A me invece l'imperatore fa dei grossi regali. Alzò la testa. Oggi ho ricevuto una lettera con la quale l'imperatore mi annuncia che mi farà dono di terre in Polonia e in Vestfalia, le quali mi assicureranno una rendita annua di 300.000 franchi. Ma non fa cenno della casa di Moreau né della tua visita. Non è tanto facile guastare ad un uomo la gioia dell'incontro con sua moglie. L'imperatore dei francesi ci riesce. Ha detto di aver ammirato assai il tuo assalto a Lubecca, riferii io. Giambattista tacque. Profonde gli si delinearono le due rughe alla radice del naso. Ammobilierò piacevolmente la nuova casa. Tu devi tornare in famiglia. Il bambino domanda sempre di te, dissi sconcertata. Giambattista crollò il capo. La casa di Moro non sarà il mio focolare. Non sarà che un alloggio nel quale ogni tanto io verrò a vedere te e Oscar. Guardò fisso il fuoco, improvvisamente rise. Scriverò a Moreau. Ma non puoi metterti in relazione con lui. Abbiamo il blocco continentale, osservai. Beh, l'imperatore vuole che io governi le città anseatiche. Da Lubecca si può scrivere in Svezia e la Svezia fa del suo meglio per restare neutrale. Dalla Svezia ci spediscono lettere in Inghilterra e in America e in Svezia io ho degli amici. In me si ridestò un ricordo, quasi dimenticato. E improvvisamente si fece vivo e vicino. Stoccolma! Stoccolma si trova presso il Polo Nord. Il cielo è come una bianca coperta da letto. Che cosa ne sai tu della Svezia? Domandai. Giambattista si ridestò dal suo torpore e divenne addirittura vivace. Quando presi Lubecca, trovai nella città anche delle truppe svedesi e precisamente uno squadrone di dragoni di Svezia. Siamo dunque in guerra anche con la Svezia? E con chi non siamo in guerra? Cioè, dopo Tilsit regna di nuovo la cosiddetta pace, ma allora gli svedesi si erano uniti ai nostri nemici. Il loro re, giovane e pazzo, pretendeva di essere eletto da Dio per annientare Napoleone. Evidentemente follia religiosa. Come si chiama? Gustavo. Gustavo IV, credo. In Svezia i re si chiamano tutti Carlo e Gustavo. Suo padre, Gustavo III, aveva tanti nemici che fu assassinato dai suoi stessi nobili ad un ballo mascherato. E questo è orribile. È così barbaro, a un ballo mascherato. Beh, ai tempi della nostra gioventù si provvedeva a questo con la ghigliottina, disse Giambattista ironico. Trovi che sia meno barbaro? È molto difficile giudicare, ma è anche più difficile condannare. Guardò di nuovo nel fuoco. A tratti gli tornava il buon umore. Il figlio di questo Gustavo che fu assassinato, un altro Gustavo, come ho detto, il quarto, mandò dunque i suoi dragoni alla guerra contro la Francia. E così avvenne che a Lubecca io feci prigioniero uno squadrone svedese. Ora la Svezia mi interessava per una ragione ben precisa e poiché avevo finalmente un'occasione di conoscere la Svezia, invitai a cena gli ufficiali svedesi prigionieri. Per questa via ho fatto conoscenza dei signori Mörner, si fermò. Aspetta, ho scritto i loro nomi in qualche luogo. Si alzò e andò allo scrittoio. Oh, ma non importa, dissi io, continua a raccontare. No, importa molto. Voglio ricordarmi questi nomi. Frugò in un cassetto, trovò un pezzo di carta e tornò da me. Erano i signori Gustav, Mörner, Flach, della Grange e i baroni Leijonhielm, Banner e Friesendorf. Sono nomi che nessuno riesce a pronunciare, dichiarai soltanto. Questi ufficiali mi spiegarono la situazione. Il loro Gustavo si è impegnato in questa guerra alla Francia contro la volontà del popolo. D'altra parte, egli anche pensava in questa maniera di accattivarsi l'amicizia dello zar, perché gli svedesi hanno sempre una gran paura che la Russia abbia a portar via loro la Finlandia. La Finlandia? Dov'è la Finlandia? Domandai io crollando il capo. Vieni qui, ti farò vedere tutto sulla carta, disse Giambattista, e io dovetti mettermi davanti alla grande carta geografica. Reggeva alto il candeliere. Ecco, qui c'è la Danimarca, collegata al continente per mezzo dello Jutland. È un paese che per ragioni geografiche non si può difendere contro il continente e ha conchiuso un patto d'amicizia con l'imperatore. Lo capisci, vero? Io assentii. E qui c'è uno stretto, l'Øresund. Qui incomincia la Svezia. La Svezia non vuole far causa comune con l'imperatore. Finora essa poteva contare sull'aiuto dello zar, ma con la pace di Tilsit lo zar si è alleato all'imperatore e Napoleone lascia mano libera allo zar negli stati del Baltico. Che cosa pensi che sia venuto in mente dopo tutto ciò a questo Gustavo? Naturalmente non ne avevo la più pallida idea. Questo forsennato adesso fa la guerra anche alla Russia. Si tratta della Finlandia, guarda qui sulla carta. Ecco, la Finlandia. E la Finlandia appartiene alla Svezia. E come possono gli svedesi tenere la Finlandia se lo zar vuole occupare il paese? domandai mentre esaminavo la carta. Vedi, anche una ragazzina ignorante come te fa questa domanda. Naturalmente, non possono tenere la Finlandia. In questa lotta i finlandesi si dissangueranno e gli svedesi con loro. La Finlandia dovrebbe essere ceduta alla Russia in cambio. Giambattista batté sulla carta. In cambio la Svezia dovrebbe cercare di attuare un'unione con la Norvegia. Chi regna in Norvegia? Il re di Danimarca. Ma i norvegesi non lo possono soffrire. Questi norvegesi devono essere un popolo curioso. Non hanno nobiltà, non hanno corte. Il re di Danimarca è anche re di Norvegia e i norvegesi adesso sono scontenti più che mai perché per causa sua sono ritenuti alleati di Napoleone. Se io dovessi dare un consiglio agli svedesi, suggerirei loro di cedere la Finlandia alla Russia e di cercare in cambio di combinare un'unione con la Norvegia. In tal caso si avrebbe un'alleanza di stati irragionevole, almeno sotto l'aspetto geografico. E hai detto queste cose agli ufficiali svedesi, a Lubecca? Oh sì, e anche molto chiaramente. Da prima non volevano assolutamente sentir parlare della possibilità di una cessione della Finlandia. Nessuna delle ragioni che adducevano in contrario mi parve che reggesse. Al fine io ho detto, signori miei, io sono obiettivo. Un francese che guarda la carta geografica, un maresciallo che di strategia un poco si intende, vi dichiara che la Russia ha bisogno della Finlandia per garantire i suoi confini. Se veramente vi sta a cuore la sorte del popolo finlandese, bene, fatevi propugnatori di una Finlandia indipendente. Ma fino a questo momento ho avuto l'impressione che a voi non importino tanto i finlandesi quanto piuttosto gli svedesi che vivono in Finlandia. Comunque, dovete rendervi conto che lo zar intende garantire le proprie frontiere e che il vostro paese ci rimetterà di sangue se non cederà nella questione finlandese. Per quel che poi riguarda il vostro secondo nemico, l'imperatore di Francia, posso comunicarvi che ben presto manderemo delle truppe francesi in Danimarca. Se la Svezia potrà o non potrà difendersi contro di noi è una faccenda che dipende esclusivamente da voi. La Norvegia invece non potrà essere occupata da Napoleone che attraverso la Svezia. Salvate il vostro paese con la neutralità armata e se proprio avete bisogno di un alleato, unitevi con la Norvegia, signori miei. Hai detto tutto questo molto bene, Giambattista. E gli svedesi che cosa hanno risposto? Mi hanno guardato stupiti, come se avessi inventato la polvere da sparo. Non guardate me, ho detto loro, guardate la carta geografica. Giambattista fece una pausa e la mattina dopo li ho spediti a casa loro, sorrise. E adesso ho degli amici in Svezia. E che bisogno hai di amici in Svezia? Boh, gli amici servono sempre dappertutto. Ma gli svedesi dovranno smetterla di fare nello stesso tempo la guerra contro la Russia e contro la Francia, altrimenti dovrò occupare il loro paese. Stiamo appunto aspettando che gli inglesi attacchino la Danimarca, nell'intento di muovere di là contro la Francia. Perciò Napoleone vuol mandare dei presidi di truppe francesi in Danimarca. E se il Gustavo svedese continuerà a credersi lo strumento di Dio che dovrà annientare Napoleone, beh, l'imperatore finirà un bel giorno con l'averne abbastanza e allora darà ordine di conquistare e di occupare la Svezia. Dopodiché io non farò altro che attraversare questo piccolo stretto mare, l'Øresund, e sbarcare nella Scania, la parte più meridionale della Svezia. Vieni a vedere ancora una volta la carta. Dovetti mettermi di nuovo davanti alla carta, ma non la guardai. Avevo viaggiato giorno e notte per venire a curare mio marito e invece di curarlo dovevo ascoltare da lui delle lezioni di geografia. La Scania, gli svedesi non la possono difendere, è strategicamente impossibile. Penso che potrebbero dare battaglia qui, e picchiò col dito sulla carta, e cercare di resistere. Ma dimmi, dissi io. Hai proprio dichiarato a questi ufficiali svedesi che tu potresti conquistare il loro paese e che essi non potrebbero difendere la Scania o Sconia, come si chiama questo paese, e che dovrebbero cercare di difendersi molto più a nord? Sì. E non puoi immaginare come rimasero sbalorditi, soprattutto uno di essi, quel Mörner, dal viso tondo e dai capelli lunghi, era tutto agitato. Voi ci rivelate i vostri piani segreti, monseigneur? Esclamava continuamente: come mai ci potete iniziare nei vostri piani segreti? Sai che cosa ho risposto? No, dissi io e mi avviai lentamente verso il lettuccio da campo. Ero tanto stanca che a stento riuscivo a tenere gli occhi aperti. Che cosa hai risposto, Giambattista? Signori miei, Non posso supporre che la Svezia resista quando si è attaccata da un maresciallo di Francia. Così ho risposto, ragazzina. Ma, ragazzina mia, dormi? Quasi, mormorai e cercai di accomodarmi sul lettuccio. Oh, vieni, ti ho fatto preparare una camera da letto. Suppongo che ormai tutti siano già andati a dormire. Ti porterò di là e nessuno ci vedrà, sussurrò Giambattista. Ma io non mi voglio alzare, sono tanto stanca. Giambattista si curvò sopra di me. Se vuoi dormire qui potrò sedermi di nuovo allo scrittoio, ho ancora da leggere molto. No, no, tu sei ferito, tu devi coricarti. Esitante, Giambattista sedette sull'orlo del letto. Toglimi le scarpe e il vestito, sono tanto stanca, dissi io. Credo che gli ufficiali di Svezia parleranno ai ministri e non daranno loro pace fino a che il re non sia costretto ad abdicare. Allora il regno passerà a suo zio. Un Gustavo? No, un Carlo. Sarebbe il Carlo numero 13, ma questo zio purtroppo non ha figli. D'altra parte si dice che sia piuttosto rimbambito. Ma perché mai porti tre sottane, mia cara? Perché durante il viaggio non ha fatto altro che piovere e ho avuto tanto freddo. Quel povero Mörner rimbambito e senza figli. No, non Mörner, il 13° Carlo di Svezia. Se mi faccio piccola piccola e mi tiro da parte, possiamo starci tutti e due nel tuo letto da campo. Possiamo provare. Ah, sì, possiamo provare, ragazzina. Ad un certo momento, durante la notte, mi destai. Stavo appoggiata al braccio di Giambattista. Sei scomoda, ragazzina? Oh, sto magnificamente. Perché non dormi, Giambattista? Non sono stanco. Mi passano tanti pensieri per la mente, ma tu devi dormire, cara. Stoccolma è sul Mälar. E sul Mälar vagano dei blocchi verdi di ghiaccio, mormorai. Come lo sai? Lo so. Conosco un tale che si chiama Persson. Mi devi tenere più stretta, Giambattista, per farmi sentire che sono proprio con te, altrimenti crederò che sia un sogno.